now boarding. Ciao Checco, tutto bene? Dai, non ci lamentiamo. Mi hai colto in contropiede. Hai visto? Questa sera improvvisiamo. No, lascia pure la sigla, mi piace. No boarding, ragazzi, buonasera. Buona serata. Buona serata, vi salutiamo già. Salutiamo, via. No boarding in programma, Ricky? Il programma dedicato agli italiani, cioè ai nostri ragazzi che se ne vanno all'estero per un bel po', per lavoro, per studio, dai, sempre la solita cosa che... E prima o poi tornano, e o prima... anche no, chi lo sa? Sì, chi lo sa, ce lo spiegheranno stasera, ci daranno un'ulteriore conferma, cosa dici? Ma speriamo. Bene, e direi che potremmo anche... Cioè, vai che fai la partire. Cosa devo dire? Ah, proprio subito così? Sì, in bomba. Stasera hai deciso di farmi tre bocchetti. Certo. Io ti dico solo che andiamo, pensa un po', nella meta preferita delle lune di miele. Oddio. Ah no? Via. E se ti dico collane di fiori e infradito con questa musichetta qua, tu pensi? Allora, direi che ho capito della canzone Fatutà, Tamurè, Tamurà. Ecco, Tamurè era il titolo. Era il titolo, bene. E direi che lo chiediamo alla nostra ospite che abbiamo qui in studio con noi questa sera. Buonasera, Alice. Ciao, Alice. Ciao a tutti, anzi, Yarana, come direbbero i polinesiani. E quindi siamo in... Polinesia francese, ciao. Grossi punti di domanda, dove sarà? Io non lo so. Polinesia è una cosa enorme in mezzo all'Oceano Pacifico, sostanzialmente. E la Polinesia francese è un insieme di isole in mezzo alla Polinesia, è più o meno sotto l'equatore, all'incirca proprio a metà dell'Oceano Pacifico. Bene, è già un'idea, ce l'abbiamo. Sì, un'idea che è beata lei. Questa è tanto, la prima grado, certezza. Terzo grado, vai, partiamo con il terzo grado della puntata di Bora Bora. Età? 23 anni. Che fai nella vita? Studio. Quando e per quanto tempo sei stata a Bora Bora? Allora, sono stata a Bora Bora dall'ottobre del 2010, che appena mi sono laureata alla triennale, ho fatto 30 ore di volo e sono sbarcata a Bora Bora. 30 ore, hai detto niente. 30 ore per la vita, più o meno. sì, sì, ve lo giuro, sono 30 ore per la vita. E sono tornata in patria al freddo e al gelo a metà gennaio 2011. Quindi insomma possiamo dire che è stata una versione un po' più breve del classico anno sabbatico post laurea? Sì, nel però. Senso che mi sono iscritta alla magistrale tramite internet dall'estero e appena sono tornata ho riniziato a studiare, cosa che sto facendo tuttora. Nella speranza di finire. Sì, però hai capito che l'anno sabbatico è andato a farselo i quattro mesi in Polonia. Quanto hai detto? Scusa, tre mesi? Ecco, in Polinesia. Cioè. Sì, non è parliamone. Che, infatti. Non è che si è fatto a Londra, a Madrid, per carità, senza nulla togliere. L'anno sabbatico, insomma, io dico sempre che ho fatto tre cose. Ho studiato, ho lavorato e poi ho fatto anche vacanza, perché insomma... In Polinesia. Cioè, cosa devo fare? Sono lì e faccio anche un po' di ti vacanza. Tocca, no? Ti tocca. Ascolta, corone di fiori e infradito non te le vediamo addosso. Le lasciate lì? No, in realtà le ho portate a casa, ma le ho lasciate nell'armadio, chiaramente, perché visto il clima che ci tiene questa settimana... L'amputazione delle dita. Sì. Beh, ma quindi, cioè, tu volevi andare in Francia, no? Insomma, ti è servito proprio andare dall'altra parte del mondo per finirla? Ho sbagliato a prendere l'aereo, insomma, cioè, sono andare a Nizza parte. Non era un po' più vicino? Ma sai, d'inverno cosa fai? Non è che puoi andare obiettivamente al freddo. No, che dici? Andiamo in Francia, ma dall'altra parte del mondo. A proposito di altra parte del mondo, questo non te l'avrà mai chiesto a nessuno, ma lì camminavate... Aspetta, signori, signori, battutona, prego. Camminavate a testa in giù? Guarda, a volte è un grosso problema se ci pensi, però avevamo della terra sotto i piedi, insomma. Pensa a te. E l'acqua gli arrivava, cioè si staccava e... Come facevate a fare la pipì? Sì. Era un casino, vabbè, ok, andiamo avanti, Checco. Domanda felice. ascolta, altre mete tropicali, oltre che per la rispettabilissima luna di miele? Con il gelo su luna di miele? No, tornerai da quelle parti? Beh, io ho detto un giorno tornerò a trovare tutte le persone che ho incontrato lì, o comunque andrò a vedere quello che mi manca, perché non sono neanche riuscita a vedere tutto. Cioè. Ma quindi per un giorno intendi non data definita? Cioè non è ancora un programma? No, intanto visto che sono in magistrale ora... Sì, devi essere qua. Quindi no, ho un annetto ancora di fronte. Il tuo futuro prossimo insomma lo vedi qua. Sì, mi tocca perché o mi laureo o al momento mi laureo, non ho altro da fare. Sì, visto sì, la crisi globale, al momento mi conviene laurearmi. Non poi... parliamo di crisi, non c'è crisi, che ripeto sempre dall'inizio, in Italia non vedo problemi, infatti. No? Bene. Siamo tutti felici, infatti. Madonna, non mi vedi contento? Che sei contento? Contentissimo, poi queste musichette, guarda. Dai, patau tau, tamurè, ce l'ascoltiamo? Tamurè anche questa. Anche questa, tutta tamurè, bella. Hatte paru, hatte paru, hatte paru, E noi che speravamo di avere Malgioglio stasera in rappresentanza dell'Isola dei Famosi, abbiamo Alice, ma... A proposito di Malgioglio, ma tu lo sai che girato al cioccolato di Pupo? La scritta Malgioglio, tornando dal Brasile. Già, io sapevo dall'Africa, no, io dal Brasile. Dice, sempre di cioccolato si tratta, dicono. Alice, andiamo a noi. Senti un po', tu cosa dovevi andare a fare là, oltre che vacanza più studio più lavoro? Allora, io in realtà mi hanno, come dire, mi hanno preso per l'Isola dei Famosi, come dicevate. No, scherzo. Allora, sono andata in un impianto di acquacultura e quindi allevavamo pesci tropicali, avevamo i nostri acquari con i pesci pagliaccio, ad esempio, tentavamo di Nemo. Vedere, sì, esatto, i Nemo, quindi andavamo a prendere i Nemo, andavamo a prendere gli anemoni, perché se no, senza l'anemone, come insegna il buon Nemo, non si fa non nulla. E poi avevamo delle canocce, che qui da noi conosciamo le nostre canocce, cicale di mare, esatto, dicesi. Lì erano delle cicale giganti, tipo aragoste? No, delle canocce solo un po' più cresciute, di anche 30 centimetri. Buone. Sì, devo dire che ne ho assaggiate alcune che erano buone. Dicono siano una prelibatezza, però secondo me erano come una nostra. Sono più le nostre? Sì. Quel corallo dentro magari, bello. Sì, ma immagina questa, come tre insieme, ecco. Sono tropicali, queste varò, e tentavamo di vedere come riuscire a riprodurle. Perché lì sono molto pregiate, sì. E quindi sia per il commercio, quindi sì, per i ristoranti, sì, sia per, appunto, dal punto di vista biologico, per vedere come fanno, sì, questi, sì, animali a riprodursi, che nessuno è mai riuscito in cattività a farle riprodurre. Voi siete riusciti? No. Okay. Anche perché una canoccia non sa proprio da che parte girarla, però vabbè. Ecco. No, sono anche cattive. Fascia protetta. Comunque sono un sacco cattive. Sì, hanno queste chele violente che per dargli da mangiare avevamo questi bacchettini, gli davamo lì delle due tre cosine e loro fump. E via. Bene, sì, non, mettevi la manina e non sapevi se tornavi con tutte le dita o se qualcuna rimaneva giù. Simpatiche. Sì, sì, infatti. Tu arrivi a Bora Bora e invece di trovarti questa strutturina così, che ti trovi? Mi trovo un avamposto dell'Isola dei Famosi. No, c'era questo laboratorio in cui c'era un po' di cose, oltre a delle vasche dove c'erano queste varò. E però, come dire, era stata un attimo sopravvalutata la capienza umana. E quindi ci siamo trovati a dover far da mangiare per 7 persone all'interno di una roulotte, di cui 2 di queste persone vivevano dentro la roulotte. Pensate, una roulotte degli anni 70 italiana, trasportata tramite container e piantata per terra a bordo sul bordo della baia dove stavamo, e lì così, quindi vento, pioggia. Ma dormivate tutti e 7 quindi dentro? No, 2 persone dormivano. Lì e l'altre? Altre 3 dentro un container. E vai, che era anch'esso trasportato e piantato nel terreno. Sì. Quindi questo cosa verde di metallo, infatti tutti che hanno visto le foto mi hanno sempre chiesto: ma tu dormivi dentro lì? Là, sì, io dormivo dentro lì, nel mio bel letto a castello, dentro questo container. E altre 2 persone erano come in prestito dal nostro vicino, che gentilmente ci aveva concesso un letto, insomma. Si è messo una mano sul cuore, altro che gentilmente. Devo dire che hanno messo molte mani sul cuore, perché appunto Isola dei Famosi, avevamo un attimo di difficoltà ogni tanto, ma... Ma quindi come comodità avevi qualcosina, cioè servizi nostri, non allora, ne parliamo? Già il fatto di far da mangiare dentro una roulotte, immaginare, insomma. Sì, com'è? C'erano questi 2 gas piccolini, sì, ma se sei in 3 persone può anche andarti, hai questa pentolina, ma fai una pasta da tipico italiano per 7 persone su un gas piccolino. Con le canocce magari prima. Lì a un certo punto, sì, è un po' un problema, ma cioè, poi ci è capitata una cosa dopo più o meno 2 settimane, sarà state, che da un lato è stata una sfiga terribile, dall'altro è stata una fortuna, perché era una domenica pomeriggio, stavamo facendo non mi ricordo cosa e improvvisamente finì la bombola del gas. Bene. Cosa fare? Ergo. Dici, vabbè, vado a comprarne una. Sì. Ricordati che sei di domenica, ricordati che sei in un'isola, in mezzo all'oceano Pacifico. Dove andiamo a comprare il gas? Dove vai a prendere una bombola? Quindi? Quindi fortunatamente i vicini che ci hanno detto: guardate che prima di mercoledì non vi arriva niente, ci avanza un fornetto elettrico, ve lo prestiamo. Dai, carini, però insomma, hai trovato molto gentili, perché oltre al forno poi ci hanno prestato il tavolo, qualche sedia. Era gente del posto? Sì, gente del posto che ha, cioè, fa conto la famiglia, uno viveva lì costantemente, altri avevano solo la casa delle vacanze perché la vita la trascorrevano a Tahiti, che è l'isola più grande. Sì, mm-hmm. Sì. Infatti Bora Bora a volte è considerata l'isola delle vacanze dei tahitiani, di quelli che sono, ho capito, magari un po' più ricchi, che hanno 2 o 3 case. Sì, dai, quindi comunque era gente benestante che vi prestava queste cose qua. Sì, sì, sì, gente che poteva anche permettersi di prestarci queste cose. Quello infatti, no, dico. Però cercavamo anche di arrangiarci, insomma, più, ma altri possibile. Servizi, cioè tipo volendo farla sporca, tipo internet, cosa così. Internet fortunatamente è una cosa che comunque è diffusa. E noi avevamo una linea telefonica con cui comunque tutto l'anno, con delle telecamere, si riesce a gestire la cosa qui dall'Italia. Sì. Quindi delle sonde eccetera per l'analisi dell'acqua. Sì. Però sì, potevamo prendere internet lì, oppure siccome era un po' in difficoltà, i nostri vicini ci hanno gentilmente concesso la password del loro wifi. Mm-hmm. E quindi potevamo usarlo, sempre ovviamente con delle difficoltà, perché... Che tipo? Tipo che... Bon, vado dai polli, ragazzi. Come dai polli? Sì, dai polli. Perché l'unico posto dove potevamo metterci seduti per prendere internet era in mezzo delle galline. Quindi ricordo molto bene delle chiamate epiche con casa o comunque con le persone qui, e dicevo a tutti che erano in mezzo ai polli. Ah, come sei in mezzo ai polli? Sì, non vi dico l'odore. Delle chiamate Skype tra i polli qui e i polli lì. Sì. Vediamo in se parlano la stessa lingua, dici. Boh, sì, almeno sai che quelli lì mangiano cocco. Vedi. E quindi... Mangiano il cocco. Sì, è l'unica cosa che cresce sugli alberi. E le uova? Cioè, vengono fuori uguali? O? Non lo so. Sinceramente non so se l'uovo sa da cocco. Cazzo, l'uovo è cocco. Ma luce, boh, insomma, cioè, voglio dire... No, corrente elettrica, tutto funziona, tutto l'acquedotto fortunatamente funziona bene, perché gli americani a metà del secolo, negli anni 50, hanno costruito l'aeroporto e ci hanno fatto una base militare, e quindi di conseguenza hanno spianato, hanno fatto tutta la strada che corre attorno all'isola. Mm-hmm. E hanno fatto l'acquedotto, quindi per quello si è fortunati. Perché non in tutte le isole c'è effettivamente un acquedotto funzionante, perché sennò puoi trovarti l'acqua che... Bah. Ascolta, ma la prima impressione, il primo impatto, cioè tu arrivi lì e ti rendi conto che, nel caso tu voglia tornare indietro, sei dall'altra parte del mondo e credo ti costi forse qualche migliaio d'euro, no, tornare. Sì, sì, la prima impressione è un po' così, nel senso, te la dipingono come l'isola fantastica, bellissima. Sì. Lo è davvero, per carità, perché ve lo dico che è veramente la perla del Pacifico. Però noi non siamo arrivati con una luna di miele, quindi non siamo arrivati con l'aereo, non siamo arrivati con la barchetta nel nostro motu, con l'accoglienza, con tutti i fiori, eccetera. Una volta arrivati a Tahiti, abbiamo dovuto prendere una barca che ci ha portato, perché costava meno ovviamente, perché da studenti disagiati e molto, molto poco forniti. Mm-hmm. Abbiamo preso questa barca che è partita più o meno sulle 5 del pomeriggio. Sì. E siamo sbarcati alle 7 del mattino dopo. Un mercantile, tra l'altro, quindi non è che avevamo la nostra bella cuccetta. Ci siamo arrangiati come abbiamo potuto. Però sì, il viaggio valse la pena, insomma. Una volta arrivati, fatalità, il tempo non era proprio fantastico, quindi c'erano le nuvolette, aveva appena piovuto, era bagnato per terra. E io ho pensato, ma dove cavolo sono finita? Scarichiamo i nostri 1000 bagagli pesantissimi. Sì. Tutti belli sporchi, perché dopo una notte in barca non era proprio. Sì. Arriviamoci, fanno caricare tutte queste cose dentro a una specie di autobus, un truck come lo chiamano loro, e ci hanno portato, insomma, all'impianto dove dovevamo andare. Quindi per strada, asfalto sì, ma a fianco fango, sabbia, pozzanghere, bambini che camminano scalzi. E lì ti aspettavi qualcosa di meglio, insomma, all'inizio. Però dai, all'inizio, diciamo che... sì, però poi ti abitui e vedi che loro... Una cosa bella che ti ricordi, cioè i sorrisi delle persone. Ok, sì. Oltre a questo, i come posto, i paesaggi. I paesaggi, cioè il colore dell'acqua è una cosa fantastica. Cioè, non... non saprei neanche descrivervi, perché dovete essere lì per vedere effettivamente che cos'è. Un po' come quelli dei film, no? Sì, esatto, no? Barchetta. Barchettina, ogni tanto, tramontino. Birrettina, volentieri. Figo. Fiorellini. Hai capito questa? Al tramonto se ne esce con... in barchetta, vederci le stelle, mano, hai capito? Direi che per far stelle. Capire ai nostri amici di cosa stiamo parlando, ci ascoltiamo questo pezzetto che fa proprio a caso nostro. Com'è? Constellations, Jack Johnson e partecipazione speciale a Eddie Vedder. Chissà quanta gente che ci sta ascoltando mi hanno fatto limonare con questa canzone. Sì, infatti cosa ci dici? Sono ci immagini, sono... dai, ci facciamo il viaggetto. Vetri appannati e olè. E olè. E vabbè, se stavate limonando scriveteci sulla nostra pagina Facebook Snowboarding Radio. Ricordatevi, insomma. Checco, come andiamo avanti qua? Con andiamo la nostra avanti. Alice. Ma ci stava raccontando qui nella durante la canzone di un'uscita notturna a far snorkeling. Sì, c'è... Snorkeling, c'era... per chi non lo sapesse, siccome ho già affrontato questi discorsi più di una volta, snorkeling è pinne, maschera, senza bombole, col boccaglio, a pelo dell'acqua e si guarda cosa c'è sotto. Prego, sì, guardi tu, guardi i pesciolini, le cosine, i coralletti. Sì. E niente, ci hanno portato di notte, sì. E quindi non è una cosa molto tipica perché devi sapere dove andare. Beh, certo. Intanto e andare fuori con... una guida? Sì. Vabbè, il nostro vicino di casa ci ha portato lui. Sempre lui. Chissà perché. Allora, alla fine. Cioè, l'avete invitato a venire qua. Non so. Vabbè, dai. E ci ha portato lui in barca. Insomma, sapeva lui dove andare. E quindi abbiamo fatto il giretto. Abbiamo visto anche due bei pesci strani. E un pesce, forse scorpione, non so. Io i pesci non è che li conosco benissimo. Sì, conosco meglio piante, ma i pesci, insomma. però bello, ecco, una cosa che non è come andare fuori di giorno. Di giorno, certo, ti vedi tutto attorno, vedi dove stai andando, certo, e soprattutto, certo, vedi molto, molto in basso, con l'acqua limpida. Sì, sì, sì. Di notte, sì, e poi è un attimo più difficile, no, ma poi ripaga anche tutto il tramonto che ti vedi o le stelle, queste, sì, cose, sì, così. Sì, sì, sì. Ma quindi, cioè, a proposito di piante, qui vedo sulla nostra scaletta alla ricerca della pianta perduta. Non è quello che pensate. Il fagiolo magico, detto anche. Guarda, c'è un po', cioè, di che pianta si tratta? Hai fatto, sei stata, allora, lì anche per questo, no? Sì, oltre ai pesci e l'acquacultura, visto che a me il mio interesse principale sono le piante, mi hanno detto, buon, tentiamo di fare qualcosa che abbia a che fare anche con quello. Sì. Quindi, dopo aver contattato un professore polinesiano, che avevo visto i primi giorni a Tahiti, lui mi ha detto, guarda, visto che hai la possibilità in teoria di andare lì, vai e cerca questa pianta che forse, se c'è, è ancora lì. Noi non lo sappiamo, ma dovrebbe esserci dispersa nell'isolotto, nell'atollo di Tupai, sì, che è l'isolotto dei maiali e dei gatti. Perché abbinamento. Sì, sì, le dicono sia l'isolotto dei maiali e dei gatti, e adesso vi spiego perché. Questo atollo disabitato, su cui abitano tre persone adesso, di cui una coppia di custodi e Robinson Crusoe, cioè un personaggio, sì, che vive da solo lì all'interno dell'isolotto e mangia il pesce, va in giro, sì, per l'isolotto, sta da solo. Sì, e accompagna magari. Sì, che la possiamo mangiare panini nel McDonald's. Cioè, specifichiamo che ci sono delle foto, delle indiscrezioni che girano nei nostri social network. Che c'è il signor Bear Grylls. E si fa vedere che si mangia scorpioni. Ta ta ta ta ta, e dopo? È là con col panino, col pastin, detta salsiccia. Figurati. È come MacGyver che rimane in panne, non sa cosa fare dalla macchina. C'è anche lui. Cioè, anche quella gira. E quindi c'è tornando, questo qui. Tornando all'isola, alcuni anni fa era stata presa dal presidente della Polinesia francese, cioè aveva fatto la sua dimora. Ne avevamo anche noi uno che faceva, che comprava le isole. Fatto sta che dopo qualche anno, fortunatamente, la cosa è stata bloccata e quindi non hanno più fatto niente. Ma sono rimaste le case che avevano costruito e i cinghiali che avevano portato per, ovviamente, alimentare la popolazione, cioè quella piccola popolazione che era. Mi stiamo mangiando un cinghiale la mattina e la sera. Tutti i pesci, no, che... cioè, tutti i pesci, ok, ma dopo un po' ti stufi anche del pesce, sì, no? Sì, sì, sì, sì. Quindi questi cinghiali, dopo un po' che nessuno li badava, hanno deciso di invadere e di fare tutto quello che volevano. Ah. Quindi ci sono questi cinghiali che girano allo stato brado. Ah. Quindi sicuro, insomma, come posto? Ah, io ho girato e non abbiamo solo trovato un cucciolo. Però trovi per terra. Trovi la mamma incazzata, credo sia un po' un problema. Sì, ma il cucciolo. Non saresti qua a raccontarci. Sì. No. Beh, tra squali e cose così, diciamo che il cinghiale ancora. Sì, può starci. E insomma, questa pianta, cerchiamo di organizzare queste uscite. Ovviamente non è che c'hai il traghettino organizzato che ti porta. Chiama, fai, senti, ok, organizza, trova la giornata giusta, perché devi fare la traversata, sono 13 chilometri, ci vuole tre quarti d'ora, però non puoi avere la giornata con troppo vento, né quella con niente di vento, né... Ma quindi barca a vela? No, barchettina a motore, se no, ciao. Ecco, comfort, 13 chilometri. Anche perché arrivi lì e siccome è un atollo, hai la barriera corallina tutto attorno, non è proprio facile prendere e arrivare nell'isola, devi essere esperto, devi sapere andare lì un attimo. Sì, abbiamo casi recenti, insomma, di qualcuno che si è sbagliato di qualche metro. Beh, la barchetta comunque, facendo dell'ironia, un po' più piccola, diciamo che a già arrivare è un'impresa. Sì. Poi arrivati lì, cammina. Perché, ma quest'isola qua è quella che fanno le foto, che c'ha il cuoricino? È l'isola a forma di cuore. Eccola là, vedi? Si è scelta anche l'isola particolare. C'è la leggenda, appunto, del... Qual è la leggenda? La leggenda del che sia a forma di cuore, perché le anime dei polinesiani, quando muoiono, partono da Punta, non mi ricordo cosa, a Tahiti. Sì. E prima di andare da in paradiso, Punta Raisi. Prima di arrivare in paradiso, fanno una sosta a Tupai e poi salgono in paradiso. Insomma, c'è questa cosa. Ah, ok. Quindi tu arrivi qui nell'isola dei morti, insomma, tu pai. Con i cinghiali. No, con i cinghiali. Con i cinghiali. Sta prendendo una piega strana. E i gatti. Surreale la puntata. e cammino alla ricerca della mia pianta. Cerchi, cerchi. Cerca, ecco. Cerca e non la trovo. E trovo una pianta ecco. Strana. No. No. No. È rimasta in Polinesia. Tanti cocchi. Tanti... Perché come la maggior parte delle isolette è sì. Diventata piantagione di cocco. Ok. E negli anni ovviamente 800-900 sì. No... Sì. Coltivazione intensiva quindi sì. Infatti anche la... guardare con Google Earth sì, dall'alto vedi piantagione di cocco. No, ma è divertentissimo vederli perché sono piantati tutti regolari. Ah, ok. Quindi vedi tutti questi puntini sì, regolarissimi triste. Sì. Non è proprio... Naturalizza un po' il tutto no? Chiaramente, infatti è anche colpa di quello che non abbiamo più piante, non abbiamo più... Cioè, e quindi sta pianta l'avete trovata io o no? Io non l'ho trovata. Beh, allora è andata in Polinesia per cercare una pianta che non ha trovato, per cercare di far accoppiare le canocce. Non siamo riusciti. Che cazzo sei andata a fare lì quindi? Vacanza, mettiamola così. Alla fine l'ha svelato. Ma no. Un sogno che hai? Di tornare nell'isola e studiare tutta la vegetazione della pianta. È stata cioè, bravissima. Tutte le piante di quell'isola lì? Sì. E io lo vorrò fare un giorno nella vita. Sì, ma quindi credo che ti voglia partire un po' prima. Cioè, tipo... No, ma a me va bene, sto lì un mesetto. Un mese e tu pensi di catalogarle tutte? Sì. Tutte? Sì. E poi c'è cioè, andata. Ma puoi prendere comodo, no, almeno 3-4 mesi, se no sei star là. No, vabbè, fare un giretto, andrò anche okay. Nelle altre isole, dai, insomma. Cioè... Quindi teniamo in considerazione la luna di miele. No. Tu. Non lo so, sinceramente. Tu, no. Tu, perché tu. Vi dirò, ho visto un po' di alberghetti lì con la spiaggia, la cosa. Però secondo me sono un sacco finti. Cioè, sì, carino il tuo bungalow sopra. Iniziamo l'acqua, a scendere troppo nel soggettivo qua. Però se tu vedi una spiaggia dell'albergo e una spiaggia come reale è un'altra roba, è un altro mondo. Cosa. Vabbè, musichina immaginate ragazzi. Immaginatevi lei tra la ricerca di questa pianta in costume, in costume e in infradito in mezzo al cappellino c'era? No, io non avevo il cappello, niente cappello piaceva. Così okay. Nature. Vana vana. Entriamo a Now Boarding. Questa è una canzone doppiamente inutile. Sai perché? Perché? Perché il titolo era Vana Vana. Oh, che forte. Che co- tocchiamo livelli sempre, sempre più bassi. È stanco, Checco? Sì, qua sono stressato e si vede. Sai che dovresti andare un po' anche tu qua. Fai dare due dritte dopo fine puntata. Lì c'è per cortesia. Ah, ok. No, pensavo dovessi, cioè, no, che dovessi andare anch'io ad appannare i vetri come no, quelli no. Degli ascoltatori di prima. No. Vabbè, chiudiamola per favore. Ok. Alice, Hawaii Kinui. Hawaii Kinui va. Che hai detto? La va è la canoa, la piroga anzi polinesiana, tipica. E l'Hawaii Kinui è una gara polinesiana di canoe che dura 3 giorni, in cui tutta la Polinesia francese, soprattutto le isole della società dove c'è cioè quelle Bora Bora, Tahiti, Waine, e Raiatea, che sono le isole principali, si fermano e festeggiano sostanzialmente. ci sono questi tre giorni di gare, in cui il terzo giorno si arriva nella spiaggia di Bora Bora, che è Matira, e lì c'è proprio l'arrivo e ci sono tutti quanti in acqua con le barchette che aspettano l'arrivo della gara. È una scusa per fare una festa mondiale. Quindi, diciamo che tutte le isole, ogni isola ha un suo rappresentante. Beh, poi dipende, perché anche loro ovviamente adesso hanno gli sponsor che sponsorizzano la barchetta. Ovviamente non è che sono di legno adesso. Allora vorrei far notare come, per quanto sia una distanza di... Quanti chilometri siamo da lì? Ah, sarà 20.000 chilometri più ecco, meno. Noi che registriamo vicino a Venezia abbiamo la regata storica, che è più o meno la stessa roba, e sono due culture completamente diverse fra tutto il mondo e paese. È no? vero, è vero, sì. Accomunate da... Sì, è vero. Da una gara di barche, fan festa. Festa, sì. Ma anche a Venezia stanno dentro in acqua con la birra in mano? No, quello non lo so. Peccato. Magari fanno la pipì in acqua dopo aver bevuto la birra. Più facile. E scusa, questi stanno invece in acqua con... Sì, per esempio hanno la barchetta, quindi sai che so, l'arrivo è più o meno a mezzogiorno. Ah, ok, si mettono ad aspettare l'arrivo con... Sì, allora o stai sulla spiaggia direttamente se non hai una barchetta, ma stai in acqua lì appollaiato con la tua birra. Sì. E ovviamente con uno stereo, perché i polinesiani se non hanno musica, e soprattutto tamarra, non sono felici. Ma per tamarra non sono quelle che abbiamo sentito noi, no? No. Cioè, ma no, è un po' strano perché mescolano anche le cose. Perché Pitbull è arrivato in Polinesia. Credo proprio di sì, guarda. Oh mio Dio. A Natale c'erano i Black Eyed Peas con Dirty Beat. E cioè, quando andavi al supermercato, chiaramente sentivi quella. Cioè, io me li ricordo ancora, tipo loro che ballano in mezzo al corridoio nella corsia del supermercato. Ah, fiesta? Sì, ma cioè, tranquilli proprio. O soprattutto allo stereo della macchina. Gente un sacco spigliato, quindi. Che so, no? Cioè, sì, tu stai lì che dormi alle 4 di notte tranquillo e ti senti passare la macchina vicino a casa con pum pum pum, e ti senti tremare i vetri, dici, ma perché cavolo devi essere così tamarro a quest'ora della notte che io voglio dormire. La musica. Sì, però insomma. Diciamo che ripeto, tutto il mondo è paese, perché anche qui da noi. Infatti, soprattutto in zona veneziana, non ci scherza. Treviso anche. e loro come sono, i polinesiani? Cioè, come tipo loro di persone? Esteticamente, anche esteticamente, come sono? Sono i classici, che un po'. Allora, creoli. Sono i Maori sostanzialmente, come i Maori ne hanno in altre culture, loro sono i Maori. Sì. E, però anche lì, come gli hawaiani, non ce ne sono più di puri. Sì. E, sono comunque un po' misti. Sì. Hanno un sacco di influenze francesi, un sacco di francesi arrivati lì, quindi misti, o un sacco di cinesi anche, un sacco di sì. Hanno i soldi e vanno là. Infatti anche la cucina è un sacco influenzata da tutte queste misto di culture. Sì, il cinese ha un sacco di influenza, anche hanno un sacco di cose francesi, cioè puoi andare lì e mangiare cucina francese, trovare il cuoco polinesiano che ti fa il... Cioè tipo rischi di trovare l'isola cantonese col foie gras? Bontà? No, ma al supermercato trovi tutte queste cose. E tipo qua da noi... Un champagnino lì, giusto, no? Cioè, qua da noi magari fai fatica a trovare certe cose, lì trovi questo. Non trovi magari altro, perché chiaramente... Per esempio il gas. Certo, il gas. Cioè, se tu vuoi fare una pizza, puoi trovare, farina. Le uova delle galline. Le uova dei polli. Dei polli che mangiano il cocco, quindi pizza al cocco. Trovi ad esempio il pomodoro, come in tutto il mondo trovi le passate di pomodoro, però non c'è la mozzarella. Purtroppo. E abbiamo trovato un formaggio che è molto simile, quindi quando abbiamo fatto la pizza italiana aveva un sentore di pizza, ma insomma dici... L'origano, tutte le piante che c'erano, l'avete trovato? L'origano non me lo ricordo sinceramente. Perché in realtà non avete trovato origano, era un'altra cosa, per questo non ti ricordi nulla. Torniamo sempre lì. È alla fine. No, ma è anche fine. Oltre alla pizza, e tiramisù senza mascarpone. Eppure ci abbiamo provato a fare. E la crema, quindi, come è venuta? Non era proprio un gran crema. Io ho fatto un sacco. Ho fatto una tonnellata di salame al cioccolato, però. Quello E loro mi piaceva tantissimo. Sì. Ragazzi, io vi lascio le vostre ricette e chiudo un attimo qui la puntata. Ah, è finita. siamo in chiusura. Beh, dai, insomma. E come finisce sta festa? Finisce che balli, canti, sei ubriaco, vai a letto. Ah, ecco, anche qui tutto il mondo è paese alla fine, no? Sì, direi di sì. Direi di sì. Con questa massima potremo concludere. Concludere questa puntata. E ci trovate su www.radiosandona.it, trasmettiamo ovviamente la CNO 2200 per per ricordarvelo, insomma. E il Facebook, ve l'ho già dato prima, la nostra pagina Facebook mi piace, e la nostra mail info, chiarimenti, perplessità, eccetera eccetera. E che codilla te, fai qualcosa? No? snowboardingradio@gmail.com. Questa puntata, come tutte le altre, le trovate in podcast sul nostro blog www.snowboardingradio.wordpress.com. Alice, programmi futuri in due secondi. Internato a Trieste in biologia, Erasmus placement a Graz da luglio a settembre, e una laurea prima o poi, insomma. Dov'è Graz? Perché non lo so. In Austria. Visto? Mari e Monti. Esatto. Mari o Monti. Dai, che co. Vabbè, ragazzi, non so cosa mi stia succedendo. È stato bellissimo anche questa sera con voi. Grazie Alice, comunque. Prego. Anzi, Maururu, come Maururu. Si direbbe. Maururu è grazie. Okay. Maururu. E Nana. Ciao, arrivederci. No, arrivederci. Arrivederci anche ai nostri ascoltatori. Ciao Alice, grazie. Ciao Ricky. Noi chiudiamo con i Radiohead, Let Down.